quiete di una sera, a inoltrata primavera. C'è un'aria che porta odore di festa. Una festa non programmata e pochissimi invitati. Sono troppi e la sala è ormai priva di posti. D'improvviso mi rendo conto di essere soltanto io a volerla, forse solo per gratitudine a tutto ciò che mi intorno. Il profumo dei fiori, le giornate serene, il rumore di un trattore che lavora e gli amici lontani che non posso sentire, è solo un treno chiamato ricordo me li porterà. Vorrei scrivere un libro e parlare di me, aver la sicurezza di poterlo concludere con un punto. Vorrei volare senza essere un angelo in un cielo privo di misericordia, dove l'amore non sia un laccio che possa soffocare il mio respiro. Volare ed ogni tanto scendere giù, fermarmi a bere l'acqua fresca di un ruscello, guardarmi intorno evitando semmai di rimanere intrappolato sul più bello. C'è un albero che sta diritto per me, può mangiare con le radici piantate dalla mia identità. Non si vive secoli, l'incessabile sete di vita si può sempre alleviar costruendo alberi per non perderci affinché l'infausto non ci venga. Sera può venire una bufera, il passato e il presente ridurre in niente. La mia vita su di un filo, per me grande più del Nilo. Sarei pronto a pagarla in qualsiasi frangente. Questo sogno sembra vero e in piedi sul mio albero io vorrei abbracciare l'universo intero, ma senza schiacciarlo. Osservare tutto il mondo, come strano e rotondo, quanta gente passa, prende, non dà. E vivendo sempre in curva, con i nervi a fior di pelle, e le stelle intanto stanno a guardare. Vorrei star sempre sopra, a quell'albero mio. Ramo un po' rotto mi impone di scendere altrimenti addio. Vedere il panorama in un modo un po' più obiettivo, che cosa è morto e che cosa è vivo. Guardare in terra a testa alta e tentare di non essere mai schivo. Magari costruire alberi ancora e fare festa quando il più ormai è fatto. Entrare con lo specchio dentro di me e non sentirmi mai troppo soddisfatto. Qui c'è un